giù da sola per caso, nessuno mi ha dato questa dritta, e quando l'ho conosciuto mi sono innamorata, perché è stato facile installarlo, perché io non sono né programmatrice, qualcosa di MySQL ne so, e sono partita a inserire, sì, a fare l'installazione, inserire i contenuti e vari documenti. Questo è mio nipote, che è stato come si dice, cos'è che hai detto, contagiato da me, dal mio entusiasmo, e poi vi parlerà, io farò prima la parte dell'installazione, poi vi parlerà Giuliana, che già collabora, Giuliana Finco, che già collabora con alcuni, per alcuni progetti per delle scuole elementari e medie. Elementari per il sito della mia direzione, e poi per un progetto per disegno per disabili che stiamo costruendo software, e con il sito ci raccordiamo per il lavoro e anche per dare un supporto a chi userà il software poi, perché non è di immediata comprensione, bisogna un po' conoscerlo, insomma, per usarlo. Allora il sito deve servire da coordinamento dei lavori, da supporto per chi poi userà questo software. E abbiamo utilizzato Joomla perché ha queste caratteristiche di accessibilità, per cui va bene per dei siti che si rivolgono a persone che magari hanno problemi a manovrare con il mouse, eccetera. Dopo comunque si vedrà meglio, insomma, quali sono le caratteristiche che lo rendono interessante per le scuole, per le pubbliche istituzioni, per le associazioni, insomma, che devono avere un rapporto con il pubblico. Benissimo, io comincio intanto a chiedere chi non ha mai visto un'installazione di Joomla. Uno, due, tre, benissimo, siamo preparati. Ok, in questi giorni, mentre mi stavo preparando per questa serata, dovevo cominciare a focalizzare gli argomenti. Il sito di Joomla, cioè il CMS Joomla, per me deve avere le 4 S. Adesso ci poi scorri, l'S della sicurezza, scendi un po' giù, lo stile, che è equivalente ai template, la grafica, la struttura e SEO e SEF. Cominciamo con la sicurezza. La sicurezza ce la dà soltanto se scarichiamo Joomla intanto dal sito joomla.it, possibilmente quasi esclusivamente con il browser Mozilla Firefox, perché i pacchetti scendono tutti perfetti. Qualche volta si scarica con Explorer, ma con Explorer qualche volta i pacchetti non scendono giù perfettamente. Tanto quando si installa Joomla si deve decidere dove installarlo, perché si può installarlo in locale, si usa, per fare le prove in locale si usa Xamp o EasyPHP, che è un server virtuale, e se invece si vuole usare, si possono usare anche dei siti gratuiti, gratuiti nel senso che danno la possibilità di gratuitamente di installare Joomla, però non hanno tutte le caratteristiche perché Joomla sia funzionante in maniera perfetta. Poi, per saperne di più, si può andare su joomlaitalia.com, joomlaitalia.it, joomlaitalia Veneto. Queste qui sono le community quasi open source, cioè non diciamo community, no, open source quasi si può dire, no, però sono community dove ci sono persone che danno informazioni e comunicano le dritte per farlo funzionare in maniera migliore. Questi siti gratuiti hanno delle caratteristiche, si può installare molto bene Joomla ed è abbastanza funzionante per le principali caratteristiche senza aggiungerci componenti o moduli. Però dà problemi con i CMOD, cioè sono con i permessi dei file e delle cartelle che spesso non sono possibili modificare in maniera perfetta. Poi un altro sempre problema che riguarda la sicurezza: bisogna installare in continuazione le patch, perché la community delle persone che si occupano di creare queste patch, sì, che ha creato Joomla e che continua a creare le patch per la sicurezza, le fanno uscire abbastanza spesso. perché ci sono molti hacker, molti cracker che possono entrare. In effetti l'ultima è stata inserita dopo che sono entrati in un database e hanno modificato dal database l'username e password dell'amministratore del sito. Poi scendi un po' giù, quando si installa Joomla online bisogna evitare appunto no, lì ho scritto password no admin, cioè l'username no admin, ho sbagliato. Bisogna evitare di mettere admin come username perché gli hacker cercavano proprio quelli che avevano admin come username. Poi un'altra caratteristica è di per la sicurezza è di mettere i moduli e componenti essenziali. Se si mettono molti componenti e molti moduli che magari sono stati creati da sviluppatori non alle prime armi, però che non hanno controllato i buchi che possono avere, attraverso questi componenti e questi moduli gli hacker, i cracker esattamente, entrano e danneggiano il sito. I principali componenti e moduli sono Docman, che serve per i download e l'upload dei documenti, dopo vi farò vedere cosa significa. Jonfish, che serve per il multilingua, perché si può anche fare un sito multilingua, e VirtualMar per l'e-commerce. Scendi un po' giù, vediamo un po' cosa c'è, che non mi ricordo più. Ah sì, per lo stile, la seconda S, è bello che sia anche un bel sito. E quindi ci sono anche template a pagamento, c'è anche chi lo sa anche fare, e ci sono tantissimi template gratuiti, cioè la grafica del sito gratuita che si può modificare attraverso una buona conoscenza di HTML e di CSS. Poi la struttura, bisogna anche impostare una buona struttura in maniera che ci siano dei menu facili da raggiungere gli argomenti che si vuole inserire nel sito, creando le sezioni e le categorie, e gli articoli devono avere descrizioni, parole chiave abbastanza interessanti per un'ottima indicizzazione. La quarta S è appunto avere la possibilità di attivare il SEO all'interno della configurazione del sito. Questo lo si può fare soltanto appunto se si utilizzano online degli hosting che sono dedicati per Joomla, perché il sito non deve essere soltanto bello, non deve essere soltanto pratico, ma deve essere anche raggiungibile per i visitatori, cioè da nuovi clienti o da nuove persone che vogliamo far conoscere, perché il sito serve per comunicare i nostri argomenti ad altre persone, o far comprare o vendere. E poi ci sono anche le 3C, che tra i Joomler va molto di moda, che sono la conoscenza, la competenza e il cuore o passione. Qualcun altro ci aggiungerebbe anche il C, se si vuole essere dei bravi sviluppatori di siti, che sarebbe il culo, nel senso che un po' di culo ci vuole sempre, cioè fondelli. Poi non siamo online. Questi li ho trovati oggi perché stavo smanettando per cercare un po' di figurine, ho trovato un po' di immagini, ho trovato il sito www.areabasilicata.it, e quello è un sito online, cioè sito della Basilicata, quindi è un sito pubblico, pubblica amministrazione, e il secondo è il sito dell'ESU di Venezia, delle mense di Venezia, che gestisce le mense pubbliche delle universitarie. Benissimo, adesso ho fatto una piccola presentazione che è mia proprio, diversa dagli altri, che il signore in fondo ha potuto conoscere i miei colleghi con cui ho fondato Joomla Veneto. Andiamo a vedere l'installazione. L'installazione si parte con scaricare il pacchetto zip da Joomla.it con Mozilla, decomprimere i file su una cartella di XAMPP. Adesso andiamo a vedere XAMPP. Chi conosce XAMPP? Sì, no. XAMPP è un server locale. Fagli vedere, vabbè, si scarica XAMPP, anzi si installa XAMPP, si cerca XAMPP in internet, si fa installa, lui installa tutto quanto, e si formano delle cartelle, eccola qua, si forma questa cartella da solo, per conto suo, e si crea all'interno della cartella HTDocs, questo è per locale però, entra dentro, si crea una cartella dove si decomprimono i file zip che si scaricano da Joomla.it. Apri file, ok, questi sono quanti file? Di Joomla. Di Joomla, ok. Adesso non stiamo neanche... Che fa? Li metto. Ah, li metti? Ok. Pensavo l'avessi già fatto. Ah, lui sta facendo l'installazione dello Joomla 1.5.9. Noi siamo già arrivati. Che è la penultima. Che siamo già arrivati appunto al 1.5.10. Abbiamo preso questa installazione dell'1.5.9 proprio per far vedere poi le patch di aggiornamento, come si fa per aggiornare. Nel frattempo non so cosa dire. Vediamo che fa. Ti posso fare una domanda? Sì. Perché rispetto agli altri software non c'è un file di installazione, è molto semplice, bisogna prima installare questo SAMP nel quale poi dobbiamo... Questo è per il locale, perché poi dobbiamo collegarlo al database. Cioè, XAMPP è praticamente un server web tipo Apache, tipo... È in locale, sì, dove all'interno c'è MySQL... Quindi non è indispensabile per Joomla... dappertutto, mi serve solo per il locale, per fare l'installazione, però adesso quello che lui sta facendo, quindi sta copiando i file che ha dezippato, li sta copiando nella cartella, è l'equivalente del via FTP che invia i file in rete quando c'è il tuo spazio web. Adesso Francesco li ha copiati nella cartella open source. Per SAMP si scrive HTTP, anche per ICP-HP si scrive http://open source, nome della cartella, nome della cartella e open source, grazie. Prego. E adesso inizia l'installazione. Questa installazione è uguale tale che vi arriva che quando aprirete l'installazione online. Allora, a questo punto qualcuno gli viene voglia di chiedere: ma è meglio lavorare in locale e poi mettere sui file online o meglio lavorare solo esclusivamente online? Sono andata in abbastanza corsi fatti da Joomla.it, i ragazzi della community Joomla.it, e spesso era stata fatta questa domanda, e in effetti invece è meglio fare l'installazione all'interno del server online e poi implementarla dei contenuti e delle immagini e dei plugin, componenti e moduli, perché ogni server ha delle caratteristiche completamente diverse, soprattutto con il server locale che si può avere, quindi è difficile poi da profano, diciamo, magari i programmatori sicuramente lo sanno fare, da profano, da quello che magari ha fatto solamente siti in HTML, è difficile fare la conversione. Questa è la prima videata, si va avanti. Aspetti un attimo, vedi adesso qua dà un errore. Questo è un errore che c'è perché siamo in locale e il Joomla, la versione di Joomla non va perfettamente bene, nel senso che alcuni componenti e alcuni moduli non vengono attivati. Quando invece avrete un server, avete un hosting che è compatibile perfettamente con Joomla, i verdi devono essere tutto quanto, deve avere almeno questi, almeno quelli sotto, ma ce l'hanno anche lì sotto. Register global deve essere off, poi c'è un altro che non c'è qua, vabbè, lo vediamo più avanti. Vai avanti, Francia. Questo avanti, questa è tutta la licenza, torni dietro. Qualcuno aveva chiesto nella volta scorsa, quando Genovina è venuta a fare la presentazione della licenza New General Public Relations, quindi entrate qui dentro e la leggete. Non l'ho studiata. Versione 2, ecco, qui è la stessa cosa che succede appunto quando lo fate online, si mette il nome dell'host. L'hosting dove voi lo depositate vi dà il nome, qui in questo caso c'è localhost, nome utente in questo caso c'è root, sapete quando... Sì, anche là, anche nel online è localhost, non mi ricordo più, no, online dicono dopo alcuni siti, alcuni server gratuiti, basta anche metterci localhost, c'è scritto comunque. Non serve in questo caso mettere la password, qui si mette il nome database.